era stato convocato per Luigi Pardo ma non si è presentato. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ancora Quadrado, un'altra finta, adesso può andare al cross, punta l'aria, dietro da Dybala, palla sul sinistro, giro! Paolo Dybala fa 14 in campionato, una meraviglia, al minuto 36, porta in vantaggio la Juve. Come si batte il Bayern? Il Bayern è dura da battere perché nonostante che le ultime partite abbia vinto poco, però ha sempre dominato l'avversario nella gestione della palla, questa è la sua forza e quindi bisogna avere la capacità di essere bravi in quei momenti lì a fare un'ottima difesa e soprattutto a far male dove loro hanno punti deboli. Di rigore per il Napoli, materiale e come per la Moviola. Higuain contro Sorrentino, parte Higuain, 1-0 Napoli, la cambia lui, 22 sul cronometro, freddissimo nella realizzazione. Io vedendo giocatori in settimana li vedo anche troppo leggeri. Tanto è venerdì, gli ho detto, ma vi rendete conto che siamo secondi in classifica perché stavamo facendo partitelle, palleggiando, ridendo e quindi ho la sensazione a tratti opposta, me l'ho avuto stasera, di una squadra che si è divertita più a palleggiare e non a cercare di andare a chiudere la partita. Palla dentro che diventa buona per Dzeko, in area di rigore, Dzeko! Dzeko, effettivamente io ho giocato un po' con le parole in questa settimana, però l'avrei fatto rigiocare comunque, perché non farlo giocare dopo quella partita lì e il giocatore poi lo perde, questo ci sarebbero arrivati tutti, spero. Ciao a tutti, oggi Pardo sta arrivando, in compenso abbiamo qui una superstar della storia del nostro calcio, Demetrio Albertini. Ciao, grazie. Grazie, ciao a tutti. Ciao, Giovanni Capuano qui con me. Ciao Carlo, ciao Dimitri. E voi ovviamente potete intervenire a 800 24 00 24, messaggi 349 238 6666, compresi WhatsApp, come chi scrive: se avessero dato un rigore così alla Juve cosa sarebbe successo? Ne avrebbero parlato anche in Parlamento. Vabbè, magari poi ne parliamo anche noi. Intanto meno male che la Juve è partita ad handicap, se no si potevano fare delle belle amichevoli con le squadre del campionato francese, Demetrio? Ma, sarebbe bello riprendere le mie interviste all'inizio dell'anno, ho detto la stessa cosa, ho detto sì, che sarebbe rientrata, poi dopo bisogna lavorare per rientrare, loro lo fanno, hanno una linea grandiosa e una sinergia con la società e anche con i tifosi in questo momento che è molto positiva. Bisogna sì, anche fare qualcosa di incredibile, perché un girone con 18 vittorie e un pareggio, a parte che non esiste nel passato, né recente né lontano, però fa anche venire qualche domanda. Cioè, ad esempio, hai nominato prima il Paris Saint-Germain, cioè quanto di quei 55 punti su 57 è merito della Juve e quanto di un campionato che non è più equilibrato come un tempo? Guarda, io con orgoglio dico, ricordo le nostre 58 partite senza mai perdere, sono quasi due campionati col Milan, quasi due stagioni, ed è normale che tante volte è la paura anche dell'avversario che magari cerca solo di difendere e non offendere, quindi alla fine diventa magari un po' più facile poter vincere. Però questa è una squadra costruita con grande programmazione, il cambio, non dimentichiamo oggi che sono stati cambiati dei giocatori fondamentali che hanno fatto vincere 3-4 scudetti prima, quindi hanno preso il passo giusto. È più forte questa di quella di Tevez e Pirlo, cioè noi ci siamo interrogati tutta l'estate, sarà più forte o più debole? È già più forte. Ha più futuro. È già più forte. Sicuramente sì, ha ma oggi, è già più forte. Se fossi juventino direi di no, perché la vorrei migliorare ancora. Però da osservatore esterno. No, da osservatore devo dire che hanno fatto un percorso bellissimo, importante, non solo bello, importante, di grande lavoro. Ma io dico che l'unico giocatore insostituibile sarà sempre Andrea Pirlo. C'è Pierluigi Pardo? Sì, come va? Buongiorno, come stai? Bene, bene, tutto a posto. Abbiamo qui Albertini, come sapevi. Siamo al top. Adesso lo interroghiamo. Come hai visto il Napoli? Il rigorino? Allora, il rigorino era un rigorino, nel senso che di quei rigori che secondo me a norma di regolamento ci stanno, anzi in realtà volendo essere addirittura due, nel senso che quello di Albiol, secondo me, di Andelkovic Albiol, non si capisce chi comincia, la maglia di Higuaín invece si allunga in maniera molto, molto chiara, molto precisa. Detto questo, la superiorità del Napoli è stata evidente, quindi insomma, non starei a fare chissà quali questioni. Anche se sicuramente gli Juventini all'ascolto diranno forse è successo a noi, ma sai no, quanti messaggi hanno già mandato? Lo capisco perché fa parte della realtà storica, è vero, sicuramente se fosse successo alla Juve ci sarebbero state tantissime polemiche. In realtà secondo me è un rigore che ci può stare. Il Napoli ha dominato la partita in lungo e in largo, non ha avuto rispetto ad altre volte la freddezza di chiuderla prima, diciamo, il cinismo per chiuderla prima, e mi sembra che insomma sia una lotta scudetta che continua con due grandi squadre che ci godiamo. Il domandone che gira Demetrio è: resisterà il Napoli? Ma ha superato forse, o almeno credo, perché poi bisogna lavorare, però ha superato quel momento dove la Juventus la superò in classifica, quindi diventa sempre un trauma in quel momento. Mi sono piaciute le parole di Sarri che avete mandato in onda prima, che diceva: io li voglio vedere più cattivi perché siamo secondi, abbiamo un'opportunità di poter stare lì e non dovremmo mai mangiarci le mani se dovesse, sì, sinceramente. Il giorno prima Sarri ha detto: chi guarda la partita della Juventus non capisce un cazzo. Ma no, sono battute, però sono un modo per far arrivare il messaggio e dire: guardiamo noi stessi. Sì, questo è corretto. Ci fermiamo un attimo per il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. C'è un grande fiume, un gran bel clima a Milano. Io penso che quest'anno mi avete fatto più domande del rapporto tra me e Berlusconi che con aspetti tecnico-tattici del Milan, no? E questo secondo me non è sano anche, ma per fortuna che ho il suo carattere così, che sto bene. Mi avete fatto più domande del rapporto tra me e Berlusconi che con aspetti tecnico-tattici del Milan, no? Questo secondo me non è sano anche. Solo qua c'è questa fissazione, solo qua c'è questa fissazione. Avete incontrato Mihajlovic, avete già avuto un primo colloquio, un'analisi di questa partita, com'era l'umore del mister? Sì, abbiamo già avuto un colloquio, abbiamo parlato. Sapevamo che ci aspettava una partita molto difficile, perché comunque Chievo è una squadra molto, molto organizzata, molto, molto fisica. Se avessimo vinto oggi non avremmo rubato niente. Creiamo tanto, ma non riusciamo a sfruttare le occasioni che ci capitano. Da fastidio certi atteggiamenti ci sono in campo, quando un compagno viene richiamato a un qualcosa di più attenzione o uno spostamento a una cosa di campo, e questo compagno si risponde, la vede come mi stai rompendo, e invece è una cosa, il richiamo a un altro compagno è una cosa costruttiva. Affondiamo con Demetrio Albertini le mani nella crisi, nel momentaccio del Milan, Giovanni, cosa dici? Ma direi che era anche una crisi abbastanza annunciata, forse di strano c'era quella striscia di 9 risultati utili consecutivi che aveva un po' riaperto anche l'idea di poter inseguire il terzo posto per una squadra che per tutto l'anno aveva sempre mancato i momenti, quelli in cui cambiare il corso della stagione. È stata una bugia. Ve lo ricordate? A dicembre doveva giocare con il Carpi, con il Verona, e due pareggi. Poi a gennaio ripartiva con il Bologna, la sconfitta in casa. Io non so se ti sorprende o no, Demetrio, il fatto che col Sassuolo e poi con il Chievo, nel momento di provare ad accelerare per superare l'Inter, è arrivato soltanto un punto. Ma da una parte è un dispiacere, dall'altra parte mi sorprende, devo dire la verità, perché quando riesci a costruire qualcosa in un una striscia così importante, positiva, hai fatto anche qualcosa, hai costruito qualcosa che va al di là del risultato, proprio di gruppo. E invece mi lascia un po' perplesse le parole di Abate dopo la partita queste ultime di Abbiati. Vogliono dire che non rientrano proprio nella costruzione, cioè, nella solidità di un gruppo che si sta giocando qualcosa. Ce l'abbiamo quelle parole, eccole qui. Un pareggio che deve lasciare riflettere. Non ci sono partite scontate, se lo mettiamo cattiveri, ha voglia di vincere, si fa fatica con tutte. Dobbiamo capire che da qui alla fine, se non siamo cattivi nella testa, faremo veramente fatica con tutte. Non sono frasi fatte, ma è la realtà. Così dunque, Abate dopo Abbiati, sono parole molto chiare che denotano anche una, secondo me, comunque una frattura dentro lì. Non a caso la settimana scorsa si è parlato di nuovo in maniera approfondita di un addio di Mihajlovic a fine stagione, lui è corso a Milan Channel a smentire tutto, però io credo che non sia il modo corretto comunque per produrre risultati o per far crescere un progetto, perché il Milan è anche abbastanza progettuale vista l'età dei giocatori. Ma prima di tutto credo che le parole di due senatori siano riferite a una parte di giocatori o a qualche giocatore in particolare che alla fine non ha ancora capito che tipo di maglia indossa o che senso di appartenenza devi avere per stare ad altissimi livelli. Io ho detto più volte che qualche giocatore che è arrivato al Milan l'ha pensato più come un traguardo che invece un punto di partenza. Io, essendo cresciuto nella società, quando ho esordito in Serie A con quella maglia del Milan, avevo due scelte: o pensare di aver toccato il cielo con un dito, o poter pensare di avere un'opportunità così incredibile da non potermela far sfuggire. E forse qualcuno non l'ha ancora capito. Queste le interpreto così io le parole di due senatori. Mi ha fatto piacere che abbiano preso una posizione e deve essere a livello costruttivo. Ogni rimprovero, soprattutto fatti da alcuni giocatori che sono tanti anni che sono lì, devono essere presi dai loro compagni come sprono e senso di collettività, non singolo. Sì, vengono in mente, Pardo, le parole di Buffon e poi di Evra negli spogliatoi di Reggio Emilia. Sì, ho le parole di Buffon dopo l'eliminazione dal Mondiale. Sicuramente, insomma, c'è poco da interpretare. È il messaggio dei senatori, di chi comunque ha vinto, di chi comunque in questi anni ha fatto sicuramente, sono abituato a un Milan anche diverso, e che mette sul piatto la sua esperienza. Ma il problema è oggettivo, insomma, mi pare chiaro che questa squadra non ha. Sì. Nel momento nel quale deve dare la sensazione di aver fatto veramente il salto definitivo, non lo dà mai. E si arriverà ad un nuovo allenatore e si arriverà ad una situazione, secondo me, non molto diversa rispetto a quella che vediamo adesso. Con la gravante che, ripeto, quest'anno si è speso. Perché la campagna acquisti di quest'anno è una campagna ma infatti, ma abbiamo detto poi, diverse volte, comunque è progettuale il Milan. Quello che dicevamo ieri pomeriggio rimane una base tecnica non da buttare via del tutto, secondo me. Cioè, non è un quadro disperato. Una base c'è, però è chiaro che ci si aspettava molto di più e prima, ecco, da questa squadra. Sì, allora che cosa serve Giovanni Capuano? Io non so se serva Di Francesco e non so se serva soprattutto continuare a pensare al Milan come a un grande club. Cioè, oggi forse il Milan non lo è più, non in questo momento. E allora se pensa Di Francesco a un profilo così e poi a metà della corsa si rimette a pensare allo scudetto, a tante altre cose, io credo che si rischi di buttare via poi un'altra occasione. Non so, Demetrio, cosa ne pensi? Per quanto riguarda, scusami, se Di Francesco ad esempio adesso possa essere il profilo giusto, visto che ragioniamo di questo. Adesso non penso sia il momento neanche di poterlo parlare. Oggi c'è un obiettivo così importante, credo che la cosa importante è poter costruire. Io ho detto sempre che questo era un cantiere aperto, va costruito, sono d'accordo quando si è intrapreso un percorso, sono stati fatti degli investimenti da parte di giocatori giovani anche, acquistando giocatori giovani e quindi di futuro, vanno messe nelle condizioni migliori per poterlo fare. conta moltissimo anche l'ambiente in cui possono crescere, può crescere questa squadra. Sì, che dà l'idea di essere un grande casino. Io ho detto più volte, che la confusione genera la confusione, quindi in questo momento sembra questo. Sì, però se proviamo a mettere su un podio, diciamo, le colpe del Milan di questa stagione, che si chiuderà comunque lontani dall'obiettivo minimo che si era dati, io non credo si possa spiegare tutto con la confusione societaria. Cioè, se il Milan di oggi ha gli stessi punti della Samp di un anno fa, ci sarà anche da fare una riflessione sulla qualità degli uomini, a partire anche da Mihajlovic. Ma sulla qualità degli uomini sempre bisogna farla, però credo anche che c'è la possibilità sempre di costruire. Si diceva sempre, credo che questo è uno degli insegnamenti dello spogliatoio, che non sempre vince il migliore, vince quello che crede di più in quello che sta facendo. Il problema è che se viene minato sempre quel tipo di percorso che stai facendo, poi diventa difficile anche poterlo condividere fino alla fine. Io credo che quest'anno il presidente Berlusconi ha speso tanto, bisogna capire anche quanti di questi giocatori alla fine abbiano quel valore, perché essere pagati tanto e poi dopo sono delle quali pressioni. Quali ti terresti? Bacca, Romagnoli? Romagnoli, Bertolacci lo terrei. Anche Bertolacci? Sì, lo terrei, perché tante volte hanno avuto anche diversi infortuni. Il primo anno nel Milan è sempre difficile poter indossare quella casacca, giocare a San Siro, devi poter costruire, hai ma bisogno di giocatori. Ma sono 5-6 non di più quelli su cui tu puoi ragionare dicendo costruisco da qui il Milan. Beh, della no, Donnarumma, puoi avere ancora De Sciglio. De Sciglio, parliamoci chiaro, dipende anche che cosa devi costruire, se hai bisogno di alcuni titolari o alcune riserve. Io mi ricordo che ci sono stati momenti che Adriano Galliani diceva che dopo due o tre anni che un giocatore rimaneva in panchina andava cambiato quelle della panchina, perché dopo arrivano gli scudetti, arrivano anche dalla panchina. Oggi non si è a questo punto sicuramente, perché negli ultimi anni, forse è il primo anno che si è speso per progettare qualcosa, negli ultimi anni si è sempre parlato, si è sempre portati dei parametri zero. Per qualsiasi motivo, non voglio discutere, però finalizzate esclusivamente alla stagione attuale, presente, sicuro, non quella futura. Sì. Sentiamo Luciano da Firenze, primo ascoltatore di oggi, 800240024, buongiorno. Buongiorno, sono orgoglioso di aver sentito da milanista le parole di Travertini, io amante di René. Volevo dire solo quella cosa, l'analisi l'ha fatta lui, però volevo dire una cosa in più. Non è possibile sempre sparare su Mihajlovic. Ieri il centrocampo del Milan, cioè vedendo la classifica, quelli sono davanti, ce l'hanno tutti migliore. Cioè, a un certo punto c'è ragione anche Mihajlovic. Con questi lì si fa così. Forse non lo doveva dire, però attacca, molto mente l'ha anche detto. Cioè, Poli, in quelle altre squadre, Inter, Roma, Juve, Napoli e Uce. Cioè, ragazzi, lì quando manca Montolivo e Kučka è finito, si vanno i drammi, perché Bonaventura è un attaccante. Dopo, il resto, Bertolacci ha ragione Demetrio, è un ragazzo giovane, forse non gioca nemmeno nel suo ruolo, perché è più un trequartista, più un giocatore davanti. Sì, Luciano, in quel centrocampo la mancanza più drammatica non ha un nome, un cognome, ma è la personalità, secondo me. Quindi sì, infatti, non c'è in quel centrocampo, ma nemmeno in quella squadra, un giocatore che se la prenda in mano quando serve. Manca leadership, ma questo lo diciamo fin dall'inizio, Demetrio. Sì, è vero, io in altri interventi ho sempre sostenuto che Riccardo debba essere un giocatore anche che prende in mano la squadra anche fuori dal campo, anche con quelle parole sentite, mi è fatto molto piacere questo sprono che ha dato a Biati e Abate, mi è fatto molto piacere, perché ti prendi un senso di responsabilità importante che c'è dentro la squadra a questo punto, e quindi vedo non uno sfogo negativo, ma uno sfogo costruttivo addirittura, non solo positivo. Manca, però, come ho detto, la confusione, le cose si mischiano, no? Ci fermiamo un attimo per la borsa e torniamo subito con Demetrio Albertini, Giovanni Capuano e ovviamente Pierluigi Pardo. 800240024, numero verde, vi aspetto. Sì, un avvio abbastanza scoppiettante, laser, fumogeni e bomboni. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Convocati. E si ricomincia con Demetrio Albertini qui con noi in studio, la Lega Pano sempre con noi in studio, e Pierluigi Pardo. Al telefono ci sei, Pier? Sì, sì, sì, eccoli qua. Eccolo là. Mauro da Modena invece è un ascoltatore, 800240024, lo sentiamo subito. Buongiorno, sono milanista da sempre, sin da quando il povero Mora si spezzò una gamba in un Bologna-Milan degli anni 60. Sì. Vorrei ringraziare tantissimo Demetrio Albertini, grande persona e grande giocatore. In particolare ricordo un Milan-Barcellona in Coppa di Campioni 3-3, dove fece una splendida doppietta su punizione. Io da Modena, quando potevo, venivo a vedere il Milan a San Siro, quando potevo, insomma. C'è chi lo vorrebbe, Albertini, c'è chi lo vorrebbe, io leggo un sacco di messaggi, c'è chi lo vorrebbe direttore sportivo del Milan, chi ancora presidente della Federcalcio. Quando è che torni in pista? In pista ci sono sempre, ho detto che mi sono dimesso da tutto tranne che da tifoso, il tifoso lo cerco di fare al miglior modo possibile. quindi rimaniamo a quella doppietta lì. Voglio chiederti una cosa invece, al di là del tifoso, argomento che ha tenuto banco nei giorni scorsi, settimane scorse: Movioli in campo, da che parte stai? Nella riserva indiana con me, che non la voglio, oppure con la grande maggioranza, FIFA compresa? Io ho la fortuna e la sfortuna, perché poi dopo c'è da lavorare, comunque faccio parte della commissione FIFA e UEFA, quindi abbiamo discusso parecchio tempo. Credo che oggi è inevitabile che vada provata, bisogna capire dove si può arrivare. Rimango sempre un po' rimango comunque un po' scettico, perché ci possono essere delle azioni da gol che non si tramutano in gol, che però vengono fermate prima, quindi bisognerebbe capire un attimo quello che è. Sono d'accordissimo sul gol non gol, sinceramente dubbio. Una delle battaglie che ho fatto internamente anch'io nella mia commissione, quindi nelle stanze giuste, era quella della tripla sanzione. Io credo che da ultimo uomo un fallo dentro l'aria, la terza sanzione è proprio il rigore, che è l'atto più semplice, sempre difficile da far gol, però l'atto più semplice nel gioco del calcio, sicuro. Io saluto anche Giovanni Floris, popolare conduttore di Come va? Va benissimo. Voi come state? Come me? Noi teniamo botta, cerchiamo di lottiamo, siamo qua gasatissimi. La Roma va bene. Vanno meglio gli Sciardana o va meglio la Roma? Ricordiamo la prima regola degli Sciardana. La prima regola degli Sciardana. Quanto vendi, Floris? Guarda, sono un po' di domeniche che vado come la magica, diciamo. Siamo tutti e due in grande spolvero. C'è un nesso, secondo te, fra il libro e... Sicuramente. Sì, come si vince la Coppa Sarda? Dunque, la Coppa Sarda si vince... Possiamo mandarti Albertini, in qualunque veste, da giocatore a allenatore a presidente. Lui è tra l'altro originario, da quello che ricordo. Comunque la Coppa Sarda viene... la decisione che prendono tre professionisti molto insoddisfatti e buttano tutta la loro verve sul calcio, cercando di recuperare la loro gioventù e di avere una grande soddisfazione cercando di vincere la Coppa Sarda, inseguendo la prima regola degli Sciardana, che è sempre quella che è bene non dimenticare. Giovanni, ti chiedo questo a bruciapelo: da tifoso romanista è più grande la soddisfazione o il rimpianto? No, sempre la soddisfazione, il rimpianto non aiuta mai nello sport, si ha sempre una domenica davanti, pensare a quelle dietro è sempre un errore. A fine campionato poi si tirano, immagino, si fanno i conti e si decide cosa fare, però è sempre la soddisfazione che deve avere la soddisfazione e la speranza della domenica dopo. Guardare a quelle dietro è sempre un peccato. Alla fine, se si esce dai problemi, è sempre la strada migliore. Sì, ragazzi, siete d'accordo? Posso rifarla la versione in prosa della domanda di Carlo? Cosa succedeva se prendevate Spalletti prima? C'è un amico che dice che c'era già Venditti che stava lì facendo le prove, il sound check, capito? Stava già provando, c'era il sax, Gato Barbieri stava già... Diciamo, certo, le decisioni difficili è sempre meglio prenderle in tempo, ecco, questo è vero. Dove sarebbe Demetrio la Roma con un allenatore, cioè con Spalletti fin dalla prima ora? Perché è inutile far finta di niente, Garcia era stato di fatto allontanato ancora prima dell'inizio della stagione. Questo non almeno lo come so, fiducia. Sì, può essere sempre difficile, però io ricordo anche che un inizio di stagione della Roma eccezionale, dove prima di dicembre o prima di novembre era l'accreditata lo scudetto, visto che la Juventus era partita molto male e il Napoli all'inizio aveva sbagliato un paio di partite. Altro giro di domande che vale per tutti. Questo è un altro macro tema. Andiamo, lo dico tutte le volte, agli europei. Andremo agli europei con l'allenatore del Chelsea in panchina. Giovanni, come la vedi? Poi Pardo, Capuano e verdetto di Albertini. Come la vede Albertini? Partiamo da lui. Vuoi partire da Albertini? Facciamo va bene. Che credo abbia vissuto già un mondiale con un allenatore pronto ad andare via. E non è andato malissimo. Situazione difficile per la federazione, perché la stagione si conclude diciamo con l'europeo, e quindi dove tante squadre possono essere già addirittura in ritiro. La federazione invece deve decidere, o comunque concordato col CT, in questo caso Antonio Conte, prima, e diventa difficile. Io sono convinto che Antonio Conte sarà concentratissimo per quanto riguarda l'europeo, perché visto che ti arriva una volta nella vita una competizione così difficile, e quindi lo farà il meglio possibile con le sue forze. La federazione metterà in campo, come ha sempre fatto, tutti i supporti possibili e magari anche impossibili, come in alcuni casi si è provato a fare al CT, per fare una bella figura, ma soprattutto per cercare di migliorare quel risultato che nel 2012 avevamo ottenuto con Cesare Prandelli. Nella testa dei giocatori cosa succede? La testa dei giocatori arriverà carichissimi, sono fiducioso nella vecchia guardia che saranno sul pezzo più ancora di quello che è capitato nel 2014 per il mondiale, e cercheranno di trascinare anche quei giocatori che magari hanno meno esperienza. Sei contento? Ti convince Giovanni Flores? Sì, mi convince. D'altronde immaginare Conte che non voglia vincere qualcosa è difficilissimo. Considerare che per chiunque veste la maglia azzurra l'europeo possa passare tra distrazioni e pensare ad altro è difficile. E come sempre poi questi sono dei tornei talmente stretti, talmente chiusi, talmente importanti che durante non si pensa altro. Poi certo può essere una situazione difficile da gestire, come dice Albertini, per la federazione, ma credo che per la squadra non sarà quello il problema. Grazie Giovanni. A presto, buon lavoro. No, io penso tra l'altro che un po' di polemiche storicamente, io non credo sia soltanto una, cioè credo che ci sia un fondo di verità, non credo che sia soltanto una tradizione o una scaramanzia, ma un po' di polemiche a noi fanno sempre bene. Nell'82, nel 2006, quindi dose omeopatica di polemica. Ma sì, secondo me noi abbiamo, guarda, adesso non voglio fare sociologia molto spiccia, ma noi siamo un popolo sicuramente che dà il meglio nell'emergenza. Non siamo un popolo che fa le cose migliori nella programmazione quando ha tanto tempo. Concordo. Fa le cose quando si sente con le spalle al muro, quando ci sono le pressioni, quando deve dimostrare che ce la fa con tutti gli altri che ti dicono che non ce la fa. Cioè quando Renzi l'altro giorno fa quella battuta sui giornalisti che ridono sulla Salerno-Reggio Calabria e questa battuta gli dà fastidio, è esattamente questa roba qua, no? Cioè noi abbiamo bisogno di questo tipo, di questo senso d'urgenza, dicono quelli che fanno marketing, no? Il senso d'urgenza che ti porta a fare le cose all'ultimo momento, magari improvvisamente in maniera adeguata. Sì, quindi alla fine. Ricordando che gli ultimi due mondiali non sono andati benissimo, anche con il senso dell'urgenza. Infatti, l'europeo non c'era. Però Demetrio dice che questo è l'europeo. Io dico purtroppo, da tifoso italiano, che siamo un po' distanti, però, anche dalla qualità portata nel 2012. Non vi dico il segno che ha fatto Demetrio Albertini, però immaginatelo. Sì. Siamo abbastanza lontani da lì. D'altra parte, ha ragione Pardo, siamo il paese dei decreti, la decretazione. Sì, però ci vuole la base su cui decretare, capito? Se non hai ancora tirato giù la base per la Salerno-Reggio Calabria, puoi anche fare il decreto, ma non la costruisci. Allora, in una grande competizione come il Mondiale degli Europei, la fortuna di un CT della federazione è di avere i giocatori nel miglior momento possibile. Anche di avere i giocatori in generale. Ecco, arrivavo a questa era la premessa. e poi dopo sarebbe quello di avere più un parco giocatori dove scegliere molto ampio per poter scegliere i giocatori migliori nelle condizioni migliori. Sì. Oggi ultimamente è sempre più difficile, chi sta giocando per lo scudetto, per traguardi importanti, ha sempre meno italiani nelle proprie squadre. E poi gli mettono la finale di Coppa Italia il 21 maggio. Io non so se Albertini, da dirigente federale, quante volte si è trovato a mediare tra queste cose. Secondo me ha ragione Conte a essere furioso, perché passi per tanti altri discorsi, ma la data della finale di Coppa Italia, se il calcio italiano ha voglia di fare sistema, si deve trovare il modo per aiutarlo. Me l'hai detto tu, fai la domanda e dati la risposta, sinceramente. Quindi il discorso vero, mi sono trovato, c'erano state delle aperture, ma è sempre veramente un lavoro per poter arrivare a capire che l'europeo può essere un vantaggio per, o il mondiale può essere un vantaggio per tutti. Chiaro. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Bene, allora abbiamo parlato di Conte che se ne va, e adesso, allora, chi arriva al posto di Conte? Questa è l'altra domanda. La faccio da Albertini e poi sentiamo Par de Capuano. La lascia a voi. Posso Floris, posso rispondere dopo? No, rispondere dopo. Gliela facciamo chiusa. No, non lo so, sinceramente. Gliela facciamo chiusa. Cioè, uno come Capello, che ha già quel tipo di esperienza, uno come Mancini per venire incontro a un eventuale problema dell'Inter. Sapete, è una delle cose difficili da presidente della federazione, questo. Perché ricordo anche che prima per quanto riguarda il presidente Tavecchio, all'inizio sosteneva che magari bisognava un po' ridurre i costi dell'allenatore, poi invece è andata a prendere un grandissimo allenatore, e quindi è sempre difficile programmare prima. Penso che sia una scelta difficile questa che avrà il presidente Tavecchio, questo per scegliere, e lo farà cercando di consigliarsi il miglior modo possibile, e cercherà di trovare la miglior soluzione per la nazionale. Ma considerato che dopo l'europeo noi abbiamo un girone in cui c'è la Spagna, c'è l'Albania e c'è la Macedonia, perché noi poi consideriamo che sono tutti scarsi gli altri, c'è solo la Spagna, ma non è così, e direttamente va solo la prima, il profilo, perché io sento parlare di Ventura, di tecnici che magari hanno bisogno, c'è anche chi ha fatto il numero di Francesco, un emergente, cioè gente che magari ha bisogno di un anno di rodaggio. Io non so se sia quello il profilo giusto adesso, al di là del nome. Non lo so, è sempre difficile, come ho detto, bisogna vedere quello che ha in testa il presidente. Si può scegliere come fa dalle altre parti, comunque a livello internazionale, a un allenatore che conosca un po' il senso di appartenenza anche di una federazione. Un allenatore è sempre difficile, è meglio un CT, perché devi salvaguardare diverse cose. Un comunicatore, che deve essere anche uno che possa sapere portare un po' la promozione del nostro calcio, oltre ad avere le competenze da allenatore vero e proprio, che può essere quello di avere le capacità per fare l'allenatore. E quindi Pardo chi è? Tutti. Che ha fatto per me Donadoni è un'ottima scelta. Io credo che Donadoni sia stato mandato via, ma la storia dice che la sua esperienza in nazionale è stata positiva. Noi siamo usciti ai calci di rigore dopo una partita di sofferenza, sicuramente contro la Spagna, ma la Spagna dopo quella vittoria di rigori ha vinto tutto nell'europeo e poi nel mondiale successivo e poi nell'europeo ancora, quindi stiamo parlando veramente di una cosa abbastanza clamorosa, secondo me. E Donadoni, mi ricordo, ero presente sul luogo del misfatto a Vienna, insomma, francamente non se la giocò male, poi alla fine pagò gli errori dal dischetto. Quindi e oggi mi sembra anche un allenatore, se possibile, più compiuto, più maturo, più anche più adatto al ruolo di selezionatore, quindi è una scelta che mi piace. Poi certo, c'è chi ha avuto ragione troppo presto, mi sa che tocchi un tono, cioè, Capello ha detto no. Donadoni sarebbe un ritorno, noi abbiamo qui qualcuno che ha avuto un senso nella storia di Donadoni in federazione e con la nazionale. No, ma sì, era un momento anche molto difficile in quel parliamo del 2006. Sì. Diversi allenatori importanti facevano parte delle squadre che alla fine c'era un processo aperto, era molto complicata la situazione, e alla fine il professor Guido Rossi scelse anche lui, comunque insieme a quelli che in quel momento lì stavano decidendo, Donadoni CT. Era giovane, aveva un po' meno di esperienza, però era uno che incarnava tutto quello che poteva essere un buon CT. Oggi lo diciamo dopo un percorso che anche lui non era andato benissimo magari a Napoli, però ha fatto benissimo a Parma. Grande lavoratore, grande conoscitore del calcio, grande senso di appartenenza e di una persona tutta di un pezzo. Dai, se fosse ancora vicepresidente, magari una telefonata gliela farebbe. Però aspettate un attimo, però, perché allora stiamo per chiudere l'ora e salutare Demetrio Albertini, Paolo Capuano. Voglio dirimere in maniera autentica la questione che si è presentata la settimana scorsa con Gentile e Valentino. Sono stato mandato via, come ho già detto, perché non davo retta alle raccomandazioni di certi giocatori che secondo me non meritavano, e quindi questo mi ha creato molti nemici. Ma da chi arrivavano le raccomandazioni? Da procuratori, da ambienti federali? Guardi, procuratori, direttori sportivi, presidenti. Anche offrivano anche dei soldi, quindi voglio dire, non è che era una cosa da poco, però come ho impostato tutta la mia carriera, che non ho mai avuto a che fare con niente, volevo continuare anche come tecnico, rimanere sempre quella persona che è leale, sportiva, che davanti a delle situazioni le affronta senza dover raccomandarsi a nessuno. A scadenza del contratto nel 2006, la federazione, dei dirigenti pro tempore dell'epoca, decisero di avvicendarlo e di non rinnovargli il contratto. Non lo ha cacciato nessuno, il contratto era in scadenza. Allora Demetrio, dammi la risposta autentica, la soluzione autentica in 30 secondi. La risposta è quella che ha detto l'ex direttore generale Antonello Valentini. Il contratto era scaduto, so che sono... stato tirato in ballo per una telefonata anch'io nel libro di Claudio Gentile, e devo dire sinceramente che quella telefonata c'è stata, però avevo solo dato disponibilità. No, avevo solo dato con grande serenità le tempistiche che dovevamo aspettare la fine del Mondiale 2006 e capire cosa avrebbe fatto Lippi, solo lì. Certo. Va bene. Grazie. Domani sono 10 anni che ha fatto l'ultima partita, Demetrio Domani Albertini. 10 anni. Domani sono 10 anni, 15 marzo tanti. 2006. Torta? No, è un ricordo, però dopo ho fatto tante altre cose in questi 10 anni. Quindi voglio ripercorrerlo con i miei fan, tutti così. Porta della gente in curva a vedere il Milan. Grande. Tutti convocati. Tutti convocati. Sono molto preoccupato per voi che siete nati nella culla del diritto, nella patria della Lex, la sacra Lex, del paese dei delitti e delle pene del Beccaria. A quei tempi sì che le prigioni erano graniti roccaforti della giustizia. Prendete lo Spielberg, una fortezza inattaccabile. Eppure dallo Spielberg è uscito, come tutti voi sapete, un capolavoro. Vero, Sacchi? Sì, professore, i Predatori dell'Arca Perduta. Sacchi? Ah già, Incontri ravvicinati del terzo tipo. No, Sacchi, tre. Beh, oggi siamo al top, direbbe Cruciani, le pagelle le facciamo col professore Marino Bartoletti. Buongiorno Marino. Ma che gioia, che gioia sentirvi. Io poi sai che sono un ascoltatore di Radio 24, della tua trasmissione in particolare. Certo, sai quando sento parlare di Spielberg a cosa penso? Cosa? A quando giovanissimo seguivo le imprese dei nostri motociclisti a Brno. C'è ancora il circuito, per carità. Sì. Allora era una specie di toboga dove attraversava la strada le galline e dove ho assistito a tante imprese, compresa una vittoria mondiale, l'ultima di Giacomo Agostini. Insomma, per me lo Spielberg è quel circuito. Mi perdonerà Piero Maroncelli, anche se io penso, dai. Senti Marino, diamo qualche numero, hai voglia? Io voglio partire da quello che immagino un voto bassissimo. La ennesima scena dei giocatori, in questo caso l'Udinese, oggi tra l'altro parentesi licenziato con Antuono, arriva De Canio, giocatori appecoronati sotto la curva. Io faccio il tifo per il giudice sportivo, perché come regolamento recita applichi qualche squalifica. Che tristezza Carlo, perché è accaduto in uno stadio che è stato sempre un esempio di civiltà, in una città che è sempre stata un esempio di civiltà da parte di una società e dunque di una squadra che sono stati sempre esempio di civiltà. Faccio mia memoria le parole di Spalletti che dice più o meno ai miei tempi queste cose non sarebbero successe. Io veramente non capisco perché un giocatore debba svendere la sua dignità come hanno fatto ieri i giocatori dell'Udinese che non avevano nulla, nulla da farsi perdonare, perché comunque hanno ottenuto un risultato decorosissimo, perché hanno preso anche un palo e perché in questo momento sinceramente ci sta di essere battuti dalla Roma, sia che tu ti chiami Udinese, sia che tu ti chiami Napoli, Juventus o qualsiasi altro top team di questo campionato. Proprio nel giorno in cui poi questa società dava un ennesimo esempio di civiltà, quindi inaugurando uno stadio importante, già da tempo senza barriere, da cui dovevano, come dire, tracimare i buoni esempi. Mi verrebbe a dire così, i giocatori imparano ad andare a ringraziare i loro tifosi, in questo caso cercando dei rischi che sinceramente potevano evitare. È raro trovare uno con le palle. È un fenomeno culturale. È raro trovare uno che abbia le palle di dissociarsi. Sì, ce n'è stato uno e mi sembra che Maurizio Crosetti, il nostro amico, lo abbia sottolineato, effettivamente, però neanche dovevano andarci, sinceramente, lì. A me non sembra che nei 139 articoli della Costituzione, detta da qualcuno la Costituzione più bella del mondo, io non lo so perché ho avuto 18 in diritto costituzionale, ci sia scritto che è obbligatorio vincere, e che meno lo era ieri. Certamente. Allora il voto si può stare sotto zero? Si può stare anche sotto zero. Beh sì, decisamente. Sì, guarda, un voto basso alla squadra, perché comunque non doveva andare a mendicare quella captatio benevolente, un voto basso ma comunque non bassissimo. Un voto veramente basso ai tifosi dell'Udinese perché mi hanno deluso e loro no, loro, la città di Giacomini non mi può deludere. Allora, un'altra contestazione che introduciamo così. Penso che sono meritati, siamo stati lontani di quello che abbiamo rappresentato fino ad oggi, principalmente qui al Franchi, per questo loro hanno tutto il suo momento di rimproverare il nostro gioco che oggi è stato molto lontano di quello che abbiamo fino ad oggi fatto vedere. Questo Sosa dopo la partita con il Verona, un discorso si può allargare anche alle ripetute contestazioni dei tifosi del Torino, annata non esaltante ma chiaramente di ricostruzione con buone prospettive. La storia di Firenze è una cosa che manda ai pazzi, Marino, perché hanno una squadra che sta facendo un campionato sportivamente, una stagione sportivamente meravigliosa. Ma cosa vuoi guarda, di più dalla vita? Guarda Carlo, sta facendo una lunga stagione sportivamente meravigliosa, perché vado a memoria, negli ultimi 9-10 anni è arrivata per 6 volte quarta. Certamente in questa città, lo dobbiamo permettere, che noi riteniamo meravigliosa, in questo pubblico che sicuramente ha, come dire, il vizio di essere stato sempre stato abituato bene, perché è una squadra che a parte un infortunio certificato ha sempre fatto talmente bene che non dimentichiamolo, è stata la prima squadra italiana ad arrivare in una finale di Coppa dei Campioni, arriva l'anno 1957, venne sconfitto in finale del Real Madrid, è stata la prima squadra italiana a vincere una Coppa internazionale, cioè la Coppa delle Coppe, 4 anni dopo. È stata una squadra che ha vinto 2 scudetti nella sua storia e credo sinceramente che allo stato delle cose, quando le wild card non vengono più distribuite, e per wild card parlo di quella della Sampdoria, di quella del Verona, di quella del Cagliari, di quella della Fiorentina, che precedette, lo ricordiamo, nel 79, lo scudetto del Cagliari, è abbastanza difficile fare di più di quello che stanno facendo questi ragazzi. Io non so come si possano criticare dalla Valle, non so come si possa criticare questa squadra, ieri sì, perché non ha giocato bene. Evidentemente, sì. Sai, se togli ai tifosi fiorentini, persone meravigliosamente appassionate dai tempi dei Guelfi e Ghibellini, la gioia di poter contestare, forse gli hai tolto anche addirittura la gioia di poter vincere. E questo coito interrotto col podio, perché arriva sempre quarta, evidentemente li ha un pochino destabilizzati, per cui qui i voti andrebbero splittati in qualche modo, sicuramente 7 alla passione dei tifosi fiorentini, ma 4 alla loro pazienza, alla loro maniera di, come dire, dimostrare questo tipo di passione. 7 alla società, perché la società meglio di così sinceramente non credo che possa fare. 6,5 forse alla squadra quest'anno, però parliamo di una squadra che è al quarto posto, saldamente al quarto posto, forse al di sopra delle sue potenzialità. Allora, adesso diamo un altro voto importante molto atteso, cioè sentiamo Marchisio e poi valutiamo numericamente le chance della Juventus a Monaco? Il Bayern è una squadra formidabile, ma lo siamo anche noi per la crescita fatta in questi anni e per quello che stiamo facendo quest'anno dopo un inizio di stagione che sappiamo com'è stato, arrivando ora con una serie di vittorie importantissime e avendo raggiunto di nuovo il primo posto in campionato. Affrontiamo una squadra che in ogni momento può, con i campioni che hanno, possono decidere la partita, però da parte nostra abbiamo mezzi e consapevolezza giusta per andarcela a giocare senza paura e in Germania. Marino, quante chance ha la Juventus? Da 1 a 10? Lo prendo larga, guarda. Intanto anche Evra ha detto una cosa molto importante. Ora al Bayern sanno che ci devono rispettare. E questo è giustissimo. Le chance sono attorno al 40% obiettivamente. Però noi possiamo dare 7,5-8 alla speranza e qualcosa di meno alle potenzialità concrete. Una cosa è giusto dirla però, sinceramente, comunque vada questa partita e ha tutto il diritto la partita di non andare bene per la Juventus, anche se il Bayern può darsi che non stia attraversando il momento migliore, malgrado la vittoria contro dei cadaveri dell'altra settimana, anche se ci facesse un gol all'inizio e la Juve andasse 1-0, anche se la Juve ha tutto il diritto di non ritenersi inferiore al Bayern, sicuramente la Juve è tra le prime 8 squadre d'Europa, lo è sicuramente indipendentemente da come va questa squadra, così come probabilmente non era la seconda squadra d'Europa lo scorso anno, ma era certamente fra le prime 3 o 4, quest'anno comunque finisca questa partita che certamente per certi versi è nata male, ma per altri ha dato adito a qualche speranza, insomma io penso che questa sia l'unica squadra italiana che in questo momento può navigare a testa alta in Europa. Certo, possa guardare negli occhi il Bayern di Monaco. Scusa? Possa guardare negli occhi il Bayern di Monaco. Bravo, possa proprio veramente guardare negli occhi il Bayern di Monaco e chissà che alla fine, facciamo gli ottimisti, dai, il Bayern di Monaco non sia convinto di essere stato sfortunato nel sorteggio. Allora, dato che sei un grande appassionato di cultura, ti voglio far sentire una cosa. Oggi viene con un gol di Higuaín. El ritmo del pipita se siente sempre más. Chocamos mamacita, come on and shake your ass. El ritmo del pipita se siente sempre más. Chocamos mamacita, come on and shake your ass. Allora Marino, questa non è male. Sai come ti arrivano queste segnalazioni? C'è un amico che me ne manda. Qui ti chiedo, è il samba del momento. È il samba del momento, qui ti chiedo 3 voti. Il Napoli di ieri, un Sarri che dice alla vigilia, chi guarda la Juventus non ha capito un cazzo, ieri dice no, stanno alzando troppo la testa, scherzano troppo, ridono troppo. E già che ci siamo, diamo anche un voto a Rocky, dai. Sarei molto divertente, guarda, al di là di quel piccolo o grande infortunio, secondo di come lo vogliamo valutare, di cos'è, un mese e mezzo fa, nel quale comunque anche in quel caso si è dimostrato un gentiluomo, perché chissà chiedere scusa è sicuramente un gentiluomo. A me diverte molto Sarri, perché sta gestendo con come lo vogliamo chiamare, sfacciataggine, dalle mie parti si direbbe sboronaggine, questa avventura ad alta quota. Mi sembra che abbia già un punto in più rispetto al Napoli dello scorso anno, ha ancora 9 partite. Potrebbe arrivare addirittura ai potenziali 85-86 punti a cui si è posta in qualche modo la quota scudetto. Forse non ha giocato benissimo ieri il Napoli, però l'ho trovato al di fuori della convalescenza di quelli che sono stati i momenti difficili di 2-3 settimane fa. E quindi io, come si fa a non provare simpatia per questa squadra, per questo progetto in generale? Guardi, ero convinto, sinceramente, essendone stato, visto l'età, un antico cantore, che il Napoli non avrebbe più vinto uno scudetto dopo Maradona. Invece qui c'è alle spalle un grande progetto, un grande frontman e credo di poter dire anche un grande allenatore. E poi c'è anche la canzone che fa il paio con Ho visto Maradona, quindi abbiamo tutto. Senti, voto a Rocky non lo vuoi dare? A Rocky? Guarda, dovrei fare un discorso lunghissimo. Rocky secondo me mi sembra il miglior arbitro italiano in questo momento, quello più in forma. Ma dato che io appartengo alla tua riserva indiana... Sì. Vorrei sapere se la Moviola avesse dovuto decidere ieri se quello era rigore o non rigore. Saremo non è che per caso staremo ancora qui a parlare oggi se lo era o non lo era. Saremo ancora lì tutti sul prato di Palermo, Marino. Saremo ancora tutti lì. Località peraltro amena, però abbiamo tutti altre cose da fare. Abbiamo qualche impegno. Ti chiedo gli ultimi due voti che non riguardano il calcio ma riguardano innanzitutto l'inverno di Rossi e della Rossa, visto che siamo alla vigilia del semaforo spento, del semaforo verde, chiamalo come vuoi. Allora, io non ti sto neanche a raccontare il mio rapporto con la famiglia Rossi, a cominciare da Graziano, anzi zero al conduttore di questa trasmissione che si è dimenticato di fargli gli auguri perché oggi è il suo compleanno. Auguri Graziano Rossi, è vero, hai ragione, anzi sotto, come i tifosi di Udine. Come ho sempre detto, io mi vanto del fatto che ho visto nascere Valentino, che modestamente mi ha fatto la pipì addosso quando era piccolo, avessi conservato quei pantaloni, quindi puoi immaginare quanto mi faccia velo l'affetto nei confronti di questo fenomeno, sicuramente il più grande campione motociclista di tutti i tempi, e posso parlare con discreta cognizione di causa, avendone visti tanti. Lo scorso anno pensavo che non avrebbe avuto più chance di vincere un mondiale, ci ha fatto pesantemente ricredere, anche se a un certo punto le contingenze sembravano lo stesso per favorire, e ci ho creduto terribilmente in quel mondiale, dove forse per la prima volta ha peccato lui, che sa essere piuttosto spregiudicato e cinico quando guida, di un po' di ingenuità. Non mi sento più di dire a questo punto non avrà più possibilità di vincere un mondiale. Io spero veramente che ce la faccia, se non altro perché se lo merita, anche se evidentemente non parte favorito. La Rossa sta crescendo, tempo 2 anni, sicuramente il suo mondiale lo vincerà. Quest'anno? Vuoi i voti? Voto all'inverno. Un bel inverno per entrambi, perché Valentino lo ha vissuto con serenità negli ambiti personali, familiari e intimi che preferisce. Mi sembra che sia preparato con la testa giusta, come sempre, dal punto di vista tecnico-fisico e soprattutto mentale. La Rossa ha fatto un bellissimo inverno perché comunque si è preparato una stagione nella quale dovrà dimostrare questa crescita, nella quale anche in quel caso 2 anni fa nessuno più credeva, quindi un inverno da 8. Sono d'accordo, Marino. L'ultima cosa, invece, un voto alla Kerel, Sharapova-Nadal con la divina Maria, che ha detto, ha risposto a Nadal, che ha evocato una squalifica durissima nei confronti della biondona. Lei ha detto, wow, a dire la verità io non mi sono mai fermata per lungo tempo come qualcun altro per cause sospette, per curarmi infortuni di chissà quale tipo. Che tristezza, intanto perché sono imparagonabili le due figure sportive, quella di Nadal, a cui lei ha fatto un accenno, è quella della Sharapova, che è stata una grande, grandissima, ma non grandissimissimo come Nadal. Certo. La filosofia generale impone di dire che quando si è ladri non serve assolutamente nulla dare del ladro a qualcun altro, a maggior ragione se non lo è. Quindi una posizione debole è quella del confronto. Voto 3. Grazie Marino. A presto. A prestissimo Marino. Ciao. Bartoletti. Grazie. Celebriamo prima gli ascoltatori, Ramone e Roberto, 800240024, celebriamo il primo scudetto europeo, il primo titolo europeo, da dove arriva? Ma da dove volete che arrivi se non dalla Francia? Normalmente è Francia o Germania, c'è ancora la neve per terra e si festeggia già lo scudetto. Abbiamo fatto tante cose positive, però non è finita, dobbiamo continuare in questa strada, perché credo che abbiamo fatto delle cose incredibili, però non è finita la stagione. C'è una cosa che magari favorisce il fatto di arrivare bene nelle partite di Champions, è quello di arrivare con un campionato già vinto e con una fiducia che forse non avevamo mai prima. Questo può essere che faccia la differenza, speriamo, e speriamo bene che il gruppo lavori bene comunque in queste settimane e riesca a fare qualcosa che prima magari per qualche motivo non c'era mai riuscito. Io credo che Paris Saint-Germain ce l'ha una grandissima squadra, ha fatto grandissimi acquisti, questo fa parte del calcio, e allora abbiamo vinto oggi il campionato, sicuramente lo volevamo vincere il prima possibile, sapendo la differenza che ci stava. E questi erano nell'ordine Thiago Silva, Sirigu e Cavani, che è stato attore non protagonista di questa stagione del Paris Saint-Germain, che sarà, suppongo, anche l'ultima con quella maglia. Ramon, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno, grazie mille per avermi richiamato. Volevo solo siccome sentivo signor Bertoletti e lei che vi dicono che questi giocatori non hanno niente da farsi perdonare, indubbiamente però mi sembra un po' pesante, perché non è che devono farsi perdonare, per amor di Dio, però come in tutto il mondo del lavoro, quando uno non fa il proprio lavoro è giusto che venga criticato, licenziato o non pagato lo stipendio, insomma, diciamo così. Nessuno critica la partita di ieri, a parte che il primo tempo, il primo tiro al 40esimo è un po' troppo. Comunque critichiamo le partite di messa in casa col Bologna. Sì, queste però, Ramon, lei ha ragione facendo quel parallelo con il mondo del lavoro, ma sono decisioni che dovrebbe prendere il datore di lavoro, non i clienti, mettiamola così. Esatto, ma io allora a questo punto dico, quando i giocatori, dato che io ero allo stadio, parlo per causa dello stadio, quando i tifosi vengono a prendere gli elogi, vengono a questo punto, sono giustamente, secondo il mio punto di vista, venuti sotto la curva, d'accordo, indubbiamente non ci sono state magari parole pesanti, però la scintilla trascinante è stata il terzo dito del signor Danilo, che si è permesso di farlo alla curva, questo è stata una cosa, da lì dopo la cosa è degenerata. Guardiamo bene la situazione, perché a Udine c'è il massimo rispetto, la squadra non è mai stata criticata, è sempre stata tifata, è sempre stata portata come... Sì, ma infatti quanto è successo ieri è appunto sorprendente per quello, anche stando a quanto dice Spalletti, alle parole di Spalletti ricordate prima da Marino Bartoletti, quindi siamo tutti rimasti un po' basiti, no? Si inaugura un nuovo stadio, c'è uno stadio di proprietà bellissimo, senza barriere, eccetera. Questa è stata un'annata sfigata per l'Udinese, complice anche una qualità della squadra che non è il massimo della vita. Non so quali, a differenza di molte altre stagioni, quali giocatori dell'Udinese potrebbero essere presi da grandi club. Detto questo, non finirò mai di criticare tutte queste collusioni che ci sono tra squadre, giocatori e tifosi. L'andare lì a capochino a chiedere scusa di qualcosa, già visti i giocatori a Sampdoria, per non parlare del derby di Genova, per non parlare di mille altre situazioni macabre di questo tipo, ebbene, a me questo non piace, non mi va giù proprio, non riesco a capirlo. I giocatori della Roma a capochino sotto la curva a prendere gli insulti, ma perché? Roberto, buongiorno. Buongiorno, sono andato lì, lo ringrazio. Senta, volevo semplicemente inserirmi un attimo in questo dibattito che si è inserito dopo la partita ieri di Udine. Non mi aspetto una risposta, indubbiamente, però quello che è accaduto è un pochettino il frutto di questa esasperazione che è stata introdotta, è la trasformazione del calcio che è sempre meno gioco, è sempre più investita di responsabilità e di compiti come le scommesse che creano aspettative, gli strumenti meccanici che ottici che vengono inseriti all'interno del campo per trasformare un gioco con la sua passione, con i suoi imprevisti, con tutti i suoi insiemi in un elemento scientifico, meccanico, pertanto si incomincia a svuotarlo sempre di più. Purtroppo, ma guarda, insomma, è chiaro che lo scenario è cambiato. Io non aver visto una situazione del genere, che in un popolo come quello udinese non me la sarei però aspettato. E quindi è deprecabilissimo. Nessuno ti ordina di fare il tifoso. Però dall'altra parte mi sembra di cercare delle giustificazioni a questo comportamento e poi mi vado a vedere il gioco del calcio che era passione, chiacchierata sì, al bar. Sì, sì, adesso va bene, però indietro Roberto non si può tornare. Le dimensioni del fenomeno sport adesso sono quelle che conosciamo. Quello che io non finirò mai di contestare è questa collusione che porta i giocatori, le società ed i tifosi a certi tifosi, uno sparuto nucleo di tifosi, ad essere così connessi, ma perché sappiamo bene che fare il tifoso è un mestiere. Vi saluto ringraziando Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia e Federico Bini in relazione, con le parole di Zlatan Ibrahimovic. A domani alle 2. You said there are many people who love you. Yeah, but not enough. No, it doesn't mean. I don't believe they can change the Eiffel for my statue, so I guess they can't. Thank you so much. Even the people behind the club, I don't believe. But if they can, I will stay here. Okay, I promise you. Good one.